Salva Danaio di Deborah Rosciani. Buongiorno, buona giornata a tutti da Deborah Rosciani, bentrovati a Salva Danaio. Allora, siamo arrivati alla quarta tappa del nostro viaggio nel decreto liberalizzazioni del governo Monti. Oggi parliamo dei farmaci generici, abbiamo ormai imparato a conoscerli, meno costosi ma equivalenti a quelli di marca, garantiscono un bel risparmio senza nulla togliere all'efficacia clinica. C'è chi consapevolmente si affida ancora al prodotto del marchio di fiducia che ha sempre acquistato, a cui è affezionato, che ha visto in pubblicità, che trova più comodo per la confezione o che preferisce per tanti altri motivi. Ma c'è anche chi non sa che il brevetto di quel prodotto è scaduto e allora è possibile acquistare spendendo meno un prodotto assolutamente equivalente dal punto di vista del principio attivo. Ed è proprio sul diritto di ottenere questa informazione che si muove il pacchetto liberalizzazioni, da cui arriva un importante incentivo alla commercializzazione di questi prodotti. Oggi il farmacista è già tenuto a comunicare al paziente l'esistenza di un generico meno costoso, ma la nuova procedura coinvolge ora anche il medico di fiducia, obbligandolo ad informare il paziente della disponibilità di questi farmaci. Sarà infatti tenuto per l'appunto il nostro medico ad indicare nella ricetta che ci prescrive se il farmaco è sostituibile con un equivalente generico o in caso contrario se si tratta di un prodotto non sostituibile per precise ragioni cliniche. A quel punto il farmacista, se sulla ricetta non è indicata la non sostituibilità del farmaco prescritto, dovrà fornire il medicinale equivalente generico avente il prezzo più basso, salvo diversa richiesta del cliente, che in quel caso, come già avviene, pagherà la differenza di prezzo col farmaco di marca. Allora, sono novità che naturalmente hanno un impatto molto rilevante fra noi consumatori. Sono novità che stanno facendo anche discutere, ma al di là delle polemiche, Salva Danaio oggi vorrebbe, mantenere fermo questo obiettivo, quello di illustrare agli ascoltatori quali sono le informazioni che il paziente ha diritto di ottenere nello studio del medico o in farmacia per poter cogliere anche in quest'ambito tutte le opportunità di risparmio, fermo restando naturalmente la sicurezza del prodotto che si acquista. Allora, con chi ne parleremo questa mattina? Intanto anche con voi, che voglio sentire all'800 24 00 24. Raccontateci se intanto conoscete la realtà del farmaco generico o farmaco equivalente, se ne fate uso, se lo chiedete al farmacista, se vi siete informati anche con il vostro medico su quello che sta cambiando. Raccontatecelo all'800 24 00 24, scriveteci al 349 238 6666, all'indirizzo salvadanaio@radio24.it o anche sul profilo Facebook che state animando sempre di più. Ci siamo anche noi sul social network che tra poco sbarca in borsa con questa IPO eccezionalmente ricca dal punto di vista finanziario, e siamo all'indirizzo salvadanaio-radio24. Vi presento i nostri ospiti di questa mattina e li saluto naturalmente. Giorgio Foresti, presidente di Asso Generici. Presidente, buongiorno, benvenuto. Buongiorno a lei. Grazie. Anzi, direi un bentornato, perché ci siamo sentiti anche nei mesi passati sempre su questi argomenti che riscuotono sempre un grande interesse da parte degli ascoltatori. Saluto e ringrazio Luigi Conte, membro del Comitato Centrale della FNOM, la Federazione Ordini dei Medici. Dottor Conte, buongiorno. Buongiorno a lei e a tutti. Grazie ancora, e tra poco ci collegheremo anche con il vicepresidente di Farmindustria, Emilio Stefanelli. Allora, vi ho dato tutte le modalità che vi permettono di interagire con noi sull'argomento di questa mattina. Se vi appassiona, se vi interessa, raccontateci la vostra esperienza. Prima diamo un'occhiata alla giornata di borsa, che è un po' nervosina, direi, ma tutto sommato abbiamo un atteggiamento di consolidamento dei rialzi di ieri. Parigi adesso segna meno 0,05%. Francoforte più 0,10, scusate, deglutisco in continuazione, ma chiaramente qua i malanni stanno arrivando anche addosso a me, un po' di mal di gola stamattina. Londra meno 0,17, Milano meno 0,23%, proprio Milano è stata la piazza più volatile della mattinata, perché era partita di nuovo con un bel progresso, poi ha perso tutto, è arrivata a perdere mezzo punto, adesso risale la china ma perde ancora terreno, meno 0,24. L'euro sul dollaro a 1,31,34, lo spread è di nuovo vicino ai 400 punti base dopo essere sceso un bel po' ieri al di sotto di questa soglia. Il mercato italiano su cosa punta stamattina? Allora, sulla scia delle speculazioni che stanno investendo Benetton, il titolo si delisterà, la società si delista per questa OPA che farà Edizione Holding, la società appunto della famiglia Benetton che la controlla. Il titolo appunto è partito a razzo questa mattina con un rialzo di quasi il 20% per poi fermarsi dalle contrattazioni, poi riprendere, adesso è a più 15. Questa notizia tra l'altro del delisting di Benetton, del quale vi preannuncio parleremo domani a Salvadanaio per l'intera puntata, proprio per tornare a raccontarvi delle operazioni straordinarie di borsa. Ecco, questa notizia ha fatto ripartire la speculazione su altre società sulle quali c'è un po' una scommessa lo stesso di cancellazione della borsa. Parmalat stamattina è una di queste, non c'è nessuna notizia a tal proposito, non se ne neanche mai parlato particolarmente nei mesi passati, eppure il titolo ha fatto partire questa fiammata, adesso è a più 6,37%. Continuano a correre le banche: Monte dei Paschi più 5,28%, Popolare di Milano più 4,59%, Banco Popolare più 4,46%, Mediobanca più 2,53%. Chi abbiamo in negativo stamattina? Un po' il lusso: Luxottica perde 2 punti, bocciata dagli analisti di UBS, Enel meno 1,86%, Tozze meno 1,84%, STM meno 1,50%, Telecom Italia meno 1,45%. Direi che la borsa la possiamo anche lasciare da parte e adesso andiamo a parlare del tema di questa mattina. Come vi dicevo appunto, il pacchetto liberalizzazioni che noi abbiamo spacchettato negli ultimi giorni per affrontare ogni aspetto, soprattutto quelli di impatto tra i consumatori e tra le famiglie che ci ascoltano, oggi abbiamo estratto un tema sicuramente molto popolare: l'utilizzo dei farmaci, soprattutto l'utilizzo tra le famiglie italiane del farmaco generico. Che cosa cambia con queste nuove misure? Che adesso, quando andremo a farci una prescrizione medica, il nostro medico dovrà indicarci in ricetta se per quel farmaco prescritto esiste l'equivalente generico o se è un farmaco non sostituibile. Volevo fare però un po' di educazione su questo argomento con Giorgio Foresti, presidente di Assogenerici. A prescindere dalla norma e dalla novità della quale parleremo tra poco, dottor Foresti ci aiuta di nuovo, credo che gliel'ho già chiesto di farlo anche nelle puntate precedenti. Qual è la genesi del farmaco generico? In che cosa si distingue rispetto a quello di marca? Ci racconta un po' la storia del brevetto scaduto che consente, al medesimo principio attivo, di costare molto meno, no? Se non ha, come dire, una scatola particolarmente nota o pubblicizzata. Esatto, guardi, lei è già stata molto chiara, quindi penso che non ci sia moltissimo da aggiungere, se non che la caratteristica principale di un farmaco generico è proprio quella di non avere un brevetto e quindi di essere replicabile nel rispetto di tutte le caratteristiche tecniche che devono avere i farmaci, quindi nel rispetto delle linee guida proprio per la produzione di un medicinale, che sono molto stringenti e molto limitanti, che sono identiche a livello europeo, direi quasi in tutto il mondo, per cui un produttore di medicinale generico, nel momento in cui scade un brevetto, è autorizzato a produrre lo stesso medicinale, con dei criteri di produzione che devono essere ovviamente certificati dalle autorità regolatorie e quindi mantenere le stesse qualità in termini di qualità di produzione, ma soprattutto in termini di efficacia e sicurezza, quindi deve garantire lo stesso risultato clinico. E questo si ottiene grazie alla cosiddetta bioequivalenza, che sono degli studi che il produttore di farmaco generico deve fare per ottenere l'autorizzazione in mettere in commercio il medicinale, nei quali deve dimostrare di raggiungere la stessa concentrazione ematica raggiunta dal farmaco di confronto e quindi dall'originator. Fatti questi test, che dimostrano come il sangue si distribuisce, il farmaco si distribuisce nel sangue allo stesso modo dell'originator, a questo punto viene autorizzato. Stavo leggendo già con grande interesse alcuni messaggi dei nostri ascoltatori, dottor Foresti, perché ce n'è uno che, e siccome qua io mi devo assolutamente affidare alla vostra competenza perché non è un tema che conosco bene facendo altro, quindi come dire posso solamente dare dei giudizi di ordine economico rispetto al risparmio che si può ottenere comprando un farmaco rispetto ad un altro, ma chiaramente poi rispetto alla loro composizione, la loro qualificazione scientifica non posso dire molto, per cui mi devo assolutamente affidare a voi. Mia cugina medico, sostiene un ascoltatore, sostiene che per legge possano contenere il 20% di principio attivo in meno. Questo magari potrebbe anche portare al minor costo, che quindi non è solamente determinato dalla minor pubblicità o da una scatola meno ingombrante, meno vistosa e quant'altro. È vero, dottor Foresti? Questo mi sembrerebbe una cosa assurda. Mi è più assurdo ancora che questo venga detto da un medico, per cui mi sembra stranissima questa frase. Probabilmente sul discorso del più o meno 20%, che è stata una trovata molto commerciale per lavorare, screditare il farmaco generico, si è insistito sul fatto che la normativa prevede la presenza del farmaco a livello di concentrazioni ematiche del più o meno 20%, che è una realtà, nel senso che questo è il normale range o la normale finestra all'interno della quale un farmaco, per dirsi efficace, deve raggiungere determinate concentrazioni. Siccome, come tutti sanno, una persona può pesare 40 kg, ne può pesare 60, ne può pesare 80, e il farmaco deve funzionare sia su 40 che su 80 kg, viene dato questo range di tolleranza perché si è sicuri che all'interno di questa finestra, quindi è un discorso tecnico, però mi rendo conto è importante capirlo, un più o meno 20% di picco ematico, che non è di quantità di principio attivo, garantisce che il farmaco sia efficace. Ma questo concetto della bioequivalenza vale per qualsiasi farmaco, per qualsiasi compressa all'interno dello stesso blister, quindi è proprio un procedimento che viene utilizzato per essere sicuri che la quantità di principio attivo garantisca l'efficacia clinica. Io le dico che intanto ci stanno scrivendo in molti appunto di questa cosa che le ho appena detto, un altro ascoltatore mi risulta che i generici non contengano la stessa quantità di principio attivo degli altri negli stessi eccipienti. Questa è una grande falsità, purtroppo, che è stata messa in giro ad arte sicuramente per screditare la fiducia nel confronto del farmaco generico. Va bene, allora cercheremo di capire se questo è vero. Allora, io tra l'altro tra poco devo andare già in pausa, però magari una battuta riesco già a farla. Prima di sentire il dottor Stefanelli, che siamo riusciti appunto ad avere telefonicamente, lo abbiamo raggiunto, vicepresidente di Farmindustria, volevo far fare subito una battuta a Luigi Conte, membro del comitato centrale dell'AFNOM, Federazione Ordini dei Medici, perché l'aspetto sul quale appunto volevamo soffermarci questa mattina è questa nuova incombenza, chiamiamola così, per i medici che adesso dovranno indicare sulla ricetta la presenza o meno di un farmaco equivalente rispetto a quello prescritto. Perché anche voi avete contestato questa norma contenuta nel pacchetto liberalizzazioni, dottor Conte? Fermo restando che la frase attribuita al collega è stata riferita da una terza persona e quindi non è detto che il collega che l'ha detta abbia effettivamente detto che il farmaco prevede il 20% in meno. Mia cugina medico sostiene, io gliel'ho letta così Comunque, qui bisogna, secondo me, distinguere due ordini di fattori. Quello economico a cui cerca di far fronte questa norma è quello della tutela della salute, che sicuramente compete ai medici e a cui i medici stanno molto attenti, ed è il principio della tutela della salute pubblica che è alla base delle nostre rivendicazioni, perché noi abbiamo la responsabilità, che ci viene anche mantenuta dai giudici allorquando facciamo una prescrizione, e quando il farmacista sostituisce un farmaco brand con un farmaco generico, la responsabilità di quel cambiamento incombe sempre sul medico prescrittore. Allora, noi non vogliamo che certi problemi, pur sacrosanti, di tipo di ordine finanziario, poi debbano essere così acriticamente buttati su una categoria. Perché è il medico che in assoluta scienza e coscienza decide qual è la prescrizione migliore per quel paziente e per quella malattia. No? Quindi allora, diciamo, voi non contestate il provvedimento in termini… Il riferimento a cui fa riferimento il dottor Foresta sulla bioequivalenza comporta che cosa? Una considerazione che sono tutte considerazioni estremamente tecniche e fatte in laboratorio e fatte a tavolino. Oltre a questo principio della bioequivalenza che riguarda i generici e su cui andrebbe fatta chiarezza, ma da parte di tutti, c'è anche quella della effettiva equivalenza terapeutica. E l'equivalenza terapeutica la rileva soltanto il medico nel suo studio o al letto del suo paziente. Quindi non si può genericamente fare delle enunciazioni di principio perché in qualche modo bisogna promuovere il risparmio economico, bisogna tener conto anche del lavoro clinico che quotidianamente viene svolto dal singolo professionista. Benissimo. È quello che diciamo, che queste cose non vanno imposte per legge. Sì, sì, ho capito che quello che voi contestate è proprio il, come dire, il tentativo di condizionamento della vostra autonomia prescrittiva. Poi vorrei anche chiederle qualcosa in più rispetto alla questione dell'equivalenza terapeutica di questi farmaci, e chiedo un minuto di pazienza invece al dottor Stefanelli, perché devo andare in pausa, abbiamo il primo blocco pubblicitario, ma dottor Stefanelli è brevissimo, però intanto la saluto, buongiorno. Buongiorno a lei. Benvenuto a Farmindustria, ci fermiamo e torniamo tra pochissimo. Salva Danaio. Eccoci di nuovo in diretta, oggi un tema che sta appassionando moltissimo i nostri ascoltatori, ci state davvero scrivendo in tanti. Allora, continuando ad affrontare tutte le liberalizzazioni, quelle di impatto fra i consumatori che sono state varate, che è stato varato appunto all'inizio dell'anno dal governo Monti, oggi abbiamo scelto di concentrarci sul farmaco generico, perché il pacchetto contiene una norma che indica al medico di base di impone al medico di base di indicare in ricetta d'ora in avanti se il farmaco che prescrive al suo paziente ha un equivalente, ha un generico corrispondente, quindi di indicarlo in ricetta, o in caso contrario, se non esiste, se per il medico se non esiste, lui può appunto proprio scrivere, deve scrivere non sostituibilità. Detto questo, è una norma appunto che ha scatenato una grandissima discussione, una presa di posizione molto netta da parte dei medici di famiglia. Abbiamo sentito prima Luigi Conte, abbiamo con noi stamattina anche il presidente di Assogenerici, e adesso vorrei sentire, per fare un giro correttamente di posizioni di tutti gli ospiti che ho chiamato questa mattina, anche Emilio Stefanelli, il vicepresidente di Farmindustria, e poi vi leggerò tutti i messaggi che ci arrivano, perché sono davvero molto significativi, sia di assoluti sostenitori appunto dell'utilizzo del farmaco equivalente, chi invece ci dà una posizione nettamente contraria, indicando anche effetti collaterali che ha avuto per l'utilizzo appunto di questi. Dottor Stefanelli, ancora buongiorno. Allora, lei ha mai preso il paracetamolo al posto della tachipirina? Non l'ho mai preso. Ah. Però voglio partire proprio da quello che ha detto il dottor Poresti, per dare la ragione per la quale, a nostro giudizio, questa norma non è giusta. E proprio partendo da quello che ha detto il dottor Poresti, un prodotto, quando scade il brevetto, è possibile per tutti registrarlo e quindi portarlo sul mercato. E quello che bisogna fare è proprio quello di portarlo sul mercato e competere sul mercato. E questo che avviene alla scadenza del brevetto. Ora, il farmaco generico ha due modi, con le regole attuali, quindi non c'è bisogno di ulteriori regole, per il quale può essere venduto. Una è quella di fare, da parte dell'azienda generica, esattamente quello che fanno le aziende farmaceutiche, e cioè l'informazione presso la classe medica. Se un genericista richiede la prescrizione dal medico, deve informare il medico. Il medico deve sapere ciò che prescrive, se no non si capisce come possa prescrivere una cosa che non gli è mai stata proposta. C'è una seconda possibilità, tutte e due legittime possibili, che è quella di agire sul prezzo, perché quando con una prescrizione il paziente va in farmacia, il farmacista sottopone al paziente la richiesta per sapere se vuole il prodotto prescritto, col quale probabilmente potrebbe dover pagare una piccola somma, oppure vuole un altro prodotto dove non deve pagare niente. Questi sono i due modi per competere sul mercato: andare dal medico, agire sui prezzi. Ora, quello che lei diceva all'inizio, il diritto di informazione è una sacrosanta verità, facciamo tutto le norme possibili per dare al cittadino tutte le informazioni che lui deve avere per poter scegliere. Mai l'industria si opporrà a questo. Ma la norma è tutt'altro una norma di liberalizzazione, è una norma di dirigismo, addirittura di concorrenza guidata, e mi scuserà chi è l'estensore di questa norma. Perché questa norma al Servizio Nazionale non porta una lira, perché comunque il servizio sanitario nazionale paga il prezzo più basso. Magari quindi non aveva questo obiettivo la norma, aveva l'obiettivo appunto solamente di dare un beneficio ai consumatori. Esattamente. Il consumatore deve essere informato. A nostro giudizio o a giudizio del legislatore non è informato a sufficienza. Facciano tutte le norme per informare meglio e di più il cittadino. Su quali aspetti, per esempio, dottor? Nessuno si opporrà. Su quali aspetti, per esempio, sulla questione del principio attivo, la questione della biodisponibilità del 20%, su che cosa, secondo lei, non informa sufficientemente il consumatore finale questa norma? Perché mandiamo un messaggio anche chiaramente su questo. No, questa norma non è che non informa, questa norma impone, che non è impone al medico di scrivere sostituibile, impone al farmacista di dare il farmaco che costa meno. Allora, non è questo il modo di dare l'informazione al paziente. Trovino tutti i modi possibili per dare maggiore informazione al paziente di quella che già il paziente non ha, e noi non avremo nulla da dire. Ma non si può fare una norma come questa, che non è una norma informativa per dare un diritto di informazione, ma è una norma coercitiva nei riguardi sia del medico sia del farmacista. Benissimo, quindi è questo che non va bene. L'impostazione, contestate il metodo con cui la norma arriva. Detto questo, siccome voglio leggere davvero tanti messaggi, oggi ce ne sono tanti, allora sulla questione del 20% in meno del principio attivo nel farmaco equivalente, un ascoltatore ci segnala che l'ha detto Silvio Garattini su Repubblica, ha detto questo, poi l'hanno detto in molti e lo ha detto anche prima il presidente di Assogenerici, Giorgio Foresti. Mia mamma, gentile Deborah, 86 anni, è passata da farmaco per aritmia cardiaca, io leggo il nome ma tanto per me è assolutamente irrilevante, Sotaketz, all'equivalente, ha rinunciato per effetti collaterali, e questo ce lo stanno indicando anche molti altri ascoltatori. Sono un informatore scientifico farmaceutico, ci scrive un altro, ho contatti quotidiani con i medici di famiglia e ognuno di loro ha più casi di pazienti che per il cambio del farmaco dal brand al generico hanno avuto più o meno effetti collaterali, anche più o meno pesanti, o comunque reazioni allergiche o comunque riduzioni dell'effetto terapeutico. E allora come la ammettiamo con questa situazione? Ecco, e Marco mi segnala che su questo argomento avevamo Cinzia da Roma. Io tra l'altro volevo anche affrontare l'aspetto economico per capire che differenza di prezzo c'è tra l'uno rispetto all'altro. E Cinzia, buongiorno. Buongiorno Deborah, grazie di questa trasmissione e di questo chiarimento, perché è tanto che l'aspettiamo gli esperti. Cinzia, se ha una radio vicino a lei col volume alto, la può abbassare gentilmente perché sentiamo l'eco e così ci capiamo meglio. Grazie. Quello che ha detto. Sarebbe importante che gli esperti, e lei lì in diretta ce n'ha, chiarissero il concetto della switchability. Le premetto che io mi occupo di questa materia e comunque sia sono un consulente, quindi sono fuori il conflitto di interesse, quindi ho lavorato per i brand e per i non brand. Però c'è un concetto importante che è approdato negli Stati Uniti e poi è stato anche preso in Europa, perché si parla di questa switchability. Che cosa significa? Significa che quando io passo dal brand al non brand devo valutare assolutamente quello che è l'indice terapeutico. Mi spiego meglio. Se io prendo la nimesulide, che si sciolga o no, io sto curando un'infiammazione. Mi segue? Sì. Se io invece sono epilettica, farmaci per il suicidio, sono diabetica o la pancreatite o malattie a rischio, dove l'indice terapeutico deve essere esattamente sovrapponibile, che cosa succede? Ed è successo negli Stati Uniti per il suicidio, in Europa per alcuni farmaci. Per il suicidio, spero che stiamo parlando di farmaci antidepressivi, Cinzia, in termini un po' più delicati. Ecco, parliamo. Sì. No, aspetti, perché negli Stati Uniti fanno i cocktail, quindi alcuni protocolli specifici per la depressione, dove loro ti danno il depressivo di prima classe o quant'altro, quindi immagini un cocktail di farmaci, ci sono stati dei non responder, cioè questi signori non hanno risposta alla terapia. Allora, la conclusione di questa domanda è: se ci sono questi non responder, ci sarà una differenza tra il brand e il non brand? Io non tifo né per l'uno né per l'altro, sì, voglio chiarire, no? Perché ci sono delle situazioni in cui va bene il non brand, io mi prendo un antinfiammatorio, che mi frega, voglio dire, ok? Però laddove c'è la necessità di un indice terapeutico estremamente sovrapponibile al problema della bioequivalenza, perché lei l'aspirina la può fare in mille modi, parlo aspirina perché ma la può micronizzare in corrente di vapore. Allora, quello che è importante poi alla fine della fiera, che nell'informazione scientifica e nelle linee guida che devono dare ai medici di medicina generale ci sia il fabbricante. Il fabbricante, io posso fare l'acido glicolico in Francia, in Germania, in Austria, eccetera, e io ho dei processi produttivi. Se lo vado a fare, dico un esempio, in Cile o in Papuasia, ci sono altre cose. Allora Cinzia, io devo dire la verità, perché la faccio anche molta fatica a seguirla, perché lei capisce, Salvadanaio aveva, come dire, anche un obiettivo diverso e non volevo addentrarmi in un aspetto così tecnico come quello che ci sta indicando, che forse non viene neanche capito dai nostri ascoltatori. Io adesso mi farò tradurre, chiaramente facendole i complimenti per la perfetta conoscenza della materia, tutto da Giorgio Foresti, presidente di Assogenerici, che mi deve chiarire appunto la questione dell'indice terapeutico, che deve essere esattamente sovrapponibile fra il farmaco che ha il brand famoso e quello che invece che è senza brand. Ci fermiamo solo per un minuto. Salvadanaio. Non vi posso dire neanche quanti medici mi stanno scrivendo e io veramente non voglio addentrarmi ulteriormente in questi aspetti tecnici, che mi rendo conto sono assolutamente quelli fondamentali per trattare l'intera questione, però cerchiamo un po' di ritornare sul nostro seminato per capire effettivamente se parallelamente, chiaramente, alle questioni di sicurezza, poi insomma il farmaco generico si può utilizzare in tutta tranquillità, chiaramente portando a casa anche un discreto risparmio per le famiglie. Ci voglio mettere insieme a tutta la considerazione che ha fatto prima l'ascoltatrice, Alberto da Torino, rapidamente, poi faccio rispondere complessivamente a tutta Giorgio Foresti. Alberto, buongiorno, perché qua insomma noi parliamo tanto di risparmio, di differenza di prezzo tra il farmaco famoso e quello meno famoso, quello col brand e quello senza brand, e poi scopriamo che anche i nostri senza brand costano di più in Italia rispetto a tutto il resto d'Europa. Alberto, buongiorno, mi pare che fosse... Esattamente questo, io stavo proprio parlando, volevo proprio parlare del fatto che un farmaco di uso comune come il paracetamolo, quindi senza assolutamente nessun obbligo di ricetta, il generico in Italia viene dell'ordine dei 3 euro, in UK tranquillamente viene dell'ordine degli 80 centesimi di sterlina. Allora, in UK non penso che sia una questione metodologica di produzione o un regime IVA diverso, qua si parla proprio del 300% di prezzo, no? Si può dire. Quindi avrei piacere di sapere da rappresentanti dei produttori come mai esattamente c'è questo tipo di differenza di prezzo. Grazie Alberto. Visto che non è soltanto su questo farmaco qua. Sì, infatti, però abbiamo fatto un esempio molto significativo. Grazie Alberto. Foresti, da dove vuole cominciare? Da un'altra domanda, nel senso che la questione... No, ci risponde su questa che ci interessa. Allora, la questione è complessa. No, io rispondo a tutto, se c'è 2 minuti si fa anche in fretta. Glieli do. Allora, la questione dell'indice terapeutico è un capitolo che suggerisco di affrontare nelle sedi giuste, no? Qua, perché facciamo di nuovo l'ennesima disinformazione sul farmaco generico, perché mettiamo in dubbio il fatto che comunque i farmaci oggi generici sono venduti più del 50-60% dei consumi a livello mondiale e quindi se avessero creato problemi importanti di tollerabilità, di sicurezza e di efficacia, non è l'Italia che è l'ultimo paese devono in esserci 2000 casi di intollerabilità per considerarlo rilevante. Comunque esatto, io non posso mettere in dubbio, no mi scusi dottore Foresti, sì, perché io non posso mettere in dubbio quello che scrivono gli ascoltatori. Se questioni di intolleranza ci sono, anche ma se fosse due soli le casi, le questioni di intolleranza sono relative, possono nascere al singolo individuo. Il singolo individuo nel momento in cui assume un nuovo farmaco può generare un'intolleranza, ma non è una questione relativa al generico o no, è relativa a qualsiasi sostanza chimica o di sintesi che una persona ingerisca. Quindi è un discorso che esula dal fatto se il farmaco generico è efficace o meno. Il farmaco generico è efficace perché lo deve dimostrare. Se poi l'individuo singolo non lo tollera, non lo digerisce, ha una reazione che non funziona, va dal proprio medico e questo glielo cambia. Cioè, questo è già così da sempre, non c'è nessuna imposizione o prendi quello o non prendi altro. Il tentativo che sta facendo il legislatore, e in questo volevo rispondere alle considerazioni fatte fino adesso, sta cercando di far sì che il medico sia lui stesso ad informare, cosa che non avviene oggi, il cittadino del fatto che può esistere un medicinale generico a minor costo. In più, la risposta che volevo dare al dottor Stefanelli era: certo che se le aziende di farmaco generico dovessero continuare a fare informazione medica, sarebbe difficilmente sostenibile una riduzione del prezzo del farmaco del 70% come normalmente avviene nel momento in cui scade di brevetto. E queste sono le motivazioni per cui il farmaco generico, quando arriva, e ricordo che normalmente arriva dopo 25 anni di utilizzo del farmaco da parte dei medici, continuare a fare informazione medica mi sembrerebbe un tantino, in certi casi, avvilente, perché non credo che ci sia molto da aggiungere ancora su un farmaco che un medico utilizza da 25 anni. Dottor Foresti, le voglio solo chiedere un'altra cosa: tutti i farmaci teoricamente hanno un equivalente, dunque, se la non questione è... Non proprio tutti, diciamo oggi una gran parte dei farmaci ad uso più comune ha l'equivalente, diciamo credo oggi ci sarà un 60-70% di prodotti per i quali esiste l'equivalente, e la norma stabilisce che o generico equivalente se a minor prezzo nel caso in cui ci sia. Se il generico non c'è, è chiaro che l'addizione messa in ricetta non altera in nessun modo la prescrizione del medico. Oppure se il medico ritiene che quel farmaco o quel paziente debba avere per forza quel prodotto che lui ha segnato, scrive non sostituibile, e questo garantisce la non cambiabilità da parte del farmacista, che è già così oggi, cioè non ci sono grandissime variazioni rispetto all'attuale. Gino da Roma, buongiorno. Buongiorno a lei. Ci racconti rapidamente, perché sto andando dritta verso la chiusura. Sì, velocissimo. Volevo soltanto dire che io uso ormai farmaci generici da tempo. Si tratta di medicinali, insomma, ecco, non per gravi patologie. Questo io non ho avuto la fortuna di non averne bisogno finora, per almeno. Però per quanto riguarda prodotti da banco tipo paracetamolo, ibuprofene... E cose varie, io l'ho preso sempre tranquillamente, non ho mai avuto un problema. Quindi, per dirli con i nomi famosi, la tachipirina al moment, così, ecco. Per esempio, per quanto riguarda questi prodotti, la differenza di diciamo, prezzo, ce lo ricorda quant'è, Gino? È enorme. Diciamo, l'effetto, perlomeno per quanto mi riguarda, c'è, e quindi io non posso che dire che le esperienze che ho avuto sono state molto positive. Va bene, Gino, la ringrazio. Allora, poi chiaramente bisogna anche distinguere da farmaco a farmaco. Questi ormai credo che siano entrati nell'utilizzo indistinto da parte dei consumatori italiani. Poi c'è forse un altro livello di medicinali per i quali forse l'approccio è necessariamente più cauto. Dottor Conte, faccio chiudere lei la trasmissione. Purtroppo non ho molto tempo, anche se qua è talmente interessante che dovremmo andare avanti almeno un altro paio di ore. Ma lei, quando fa le sue prescrizioni, io immagino, io comunque do per scontato che lei sia un medico, fa una chiacchierata informativa su questi argomenti con i suoi pazienti, generalmente? Generalmente sì, però vede, io vorrei chiarire una cosa: non si può dire in partenza che ci si affida all'educazione dei cittadini, alla diffusione delle conoscenze, e poi accettare di mantenere basso il prezzo, rinunciando a fare una corretta informazione anche presso i medici, perché sicuramente il farmaco col brand spende dei fondi per portare a conoscenza dei medici le novità e le tipologie dei farmaci, questo non lo fa il generico, quindi non si può buttare addosso ad una categoria un fatto esclusivamente di tipo commerciale ed economico. Va bene. E chiariamo una volta per tutte questa storia del farmaco, del principio attivo più o meno o meno 20%. Non si tratta di presenza del principio attivo, ma si tratta di un concetto ben più complesso che è quello della bioequivalenza, e non stiamo sicuramente qui a anche perché devo chiudere fra 20 secondi, sì. Dottor Conte, un'ultima cosa, insomma, da domani come cambieranno le sue abitudini con i pazienti? Cambieranno molto probabilmente scrivendo farmaco non sostituibile. Ecco. Perché noi rivendichiamo, cioè senza voler per questo criminalizzare il farmaco generico. Sì. Ma rivendicate vogliamo... la vostra autonomia decisionale su questo tema. Non riesco ad approfondire. Grazie comunque a Luigi Conte, Giorgio Foresti, Emilio Stefanelli per essere stati con noi, a tutti voi che avete animato in tantissimi la nostra trasmissione. Ci sentiamo domani, buona giornata.